Europa 24. Ben ritrovati da Laura Bettini per questo nuovo appuntamento con Europa 24, in cui torniamo a parlare di immigrazione. Gli sbarchi, come ben sappiamo, continuano in questi giorni, così come le tragedie nel Mediterraneo o sulla Manica. Dopo l'ultimo naufragio, Natasha Berthaud, portavoce della Commissione Fuschietta. Migration is not a popular nor a pretty topic. L'immigrazione, disse, non è un tema popolare, facile. Facile è commuoversi davanti alla TV. Prendersi delle responsabilità non è facile. E invece ora dobbiamo decidere cosa fare davvero. The answer to these challenges is definitely. La risposta ai nostri problemi non è la fortezza europea, aveva affermato al culmine delle crisi di Ventimiglia prima e di Calais poi il commissario responsabile per la migrazione, gli affari interni e la cittadinanza, Dimitris Avramopoulos. L'Europa can only prosper so long as it energetically facilitates the mobility of ideas. L'Europa può prosperare solo se favorisce il movimento di idee, merci e persone, dice. Certo, dobbiamo lavorare per la sicurezza, tenendo i criminali e i terroristi fuori dai confini, ma non retrocedendo da Schengen, che è stata una grande conquista. Schengen is one of the greatest achievements of European integration, and we have to maintain the absence of controls at the internal borders. Insomma, Avramopoulos chiarisce allora che i pilastri della sua azione sarebbero stati accoglienza e sicurezza. E ovviamente sono stati gli stessi pilastri che hanno sostenuto le scelte della Commissione europea, che ha approvato ieri altri 23 programmi nazionali pluriennali nel quadro del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, il cui acronimo è AMIF, e del Fondo Sicurezza Interna, ISF. L'importo complessivo dei finanziamenti per i programmi concordati ammonta a circa 2,4 miliardi di euro per il periodo 2014-2020. Lo ha annunciato la portavoce Natasha Berthaud. Il denaro potrà essere trasferito agli Stati membri in prima linea, come la Grecia e l'Italia, e ad altri Stati membri che devono affrontare ingenti flussi migratori, ha detto. Tra i due fondi, l'ISF per la gestione e la sorveglianza delle frontiere e le azioni di polizia è quello più finanziato, poiché riceve 1 miliardo e 211 milioni contro il 1 miliardo e 52 milioni del fondo AMIF per le azioni di accoglienza. Quanto ai paesi, la parte del leone la fa l'Italia, che riceve oltre 313 milioni dal fondo AMIF e più di 244 milioni da ISF, principalmente sotto il capitolo controllo delle frontiere. Spicca invece la Svezia per il motivo opposto, riceve 154 milioni per progetti di accoglienza, ricollocamento e reinsediamento e nulla per le azioni di polizia. Ai soccorsi hanno partecipato anche due navi della Marina Militare Italiana, una nave militare tedesca, un'unità della Guardia Costiera Maltese, una della Guardia Costiera Svedese e un mercantile. Nella classifica generale dei progetti finanziati, l'Italia è seguita da Grecia e Spagna. In aggiunta a questa dotazione base, diciamo così, la maggior parte dei programmi nazionali è integrata da ulteriori importi messi a disposizione per la realizzazione di specifiche azioni transnazionali, come i progetti comuni di rimpatrio e reinserimento. Altri finanziamenti saranno invece destinati all'acquisto di attrezzature per l'agenzia Frontex. Quest'anno erano già stati approvati dalla Commissione 22 programmi nazionali, altri 13 saranno approvati nel corso del 2015. Dice la Commissione che grazie alla dotazione totale complessiva di quasi 7 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, i fondi AMIF e ISF rappresentano i principali strumenti finanziari con cui l'Unione investe per un'Europa aperta e sicura. E magari più solidale di quanto non si sia dimostrata nella discussione sulla ripartizione dei migranti del mese scorso. È tutto anche per questo appuntamento con Europa 24. Da Laura Bettini un buon proseguimento d'ascolto e appuntamento a domani alla stessa ora. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.